Io sono molto lieto di presentare qui il libro di un germanista molto valido come Gabriele Guerra su Junger, però è un Ernst Junger preso nel periodo che va, come vedete, dal 1918 al 1945, titolo anche molto significativo, La forza della forma. Junger è stato un autore. È un autore molto presente nella riflessione italiana, nel dibattito italiano, tanto della germanistica quanto della filosofia, e della filosofia non soltanto sul versante dell'estetica, ma anche della filosofia politica. E io ricordo in particolare due motivi della riflessione jungeriana che hanno segnato dei tornanti importanti del dibattito nell'ambito filosofico, e cioè i due confronti con Heidegger da una parte e con Carl Schmitt dall'altra parte. Confronto con Heidegger è il famoso confronto sul tema della linea, Über die Linie, no? E sulla linea, intorno alla linea, dove la posta in gioco era proprio la interpretazione del nichilismo, dove evidentemente il problema fondamentale era se fosse più valida la idea jungeriana dell'oltrepassamento della linea del nichilismo, o invece la prospettiva heideggeriana dello approfondimento, sprofondamento della linea del nichilismo. Io ricordo dei dibattiti molto accesi col nostro comune amico Massimo Cacciari su questa tematica, dove Cacciari abbracciava fortemente la idea heideggeriana dell'insistere sulla linea del nichilismo, andando ad approfondirla. A me è capitato, proprio è una cosa che volevo addurre proprio in proposito, proprio su questo tema, a me è capitato nell'autunno del 1987 di incontrare Ernst Junger a Napoli e di fare con lui un dibattito al quale erano presenti tanto germanisti che filosofi. I germanisti erano Marino Freschi e Paolo Chiarini, i filosofi eravamo io e Roberto Sposito. E ricordo Junger ci colpì per varie ragioni. Lui all'epoca aveva 92 anni, era scattante come un atleta. Durante il dibattito si fece portare, cosa molto curiosa, una bottiglia di Barbaresco, e cominciò a bere il Barbaresco e beve per intero la bottiglia durante il dibattito. Devo dire che diciamo il numero più elevato di bicchieri li beve, non so se questo può avere un significato, durante l'intervento di Paolo Chiarini, che era l'intervento molto più critico nei confronti di Junger, e lui come dire, lui degustava la cosa un po' sorridendo, eccetera. E ricordo che io gli posi una domanda: se lui riteneva che l'oltrepassamento del nichilismo fosse in antitesi con il tema appunto heideggeriano dell'approfondimento, sprofondamento del nichilismo. Lui disse che, perché io avanzai la mia tesi che non erano affatto in contraddizione, e lui disse che anche lui riteneva che l'obiezione heideggeriana fosse sostanzialmente un gioco verbale, perché l'unica maniera per approfondire il nichilismo è prendere le distanze e andare avanti. Quindi l'idea della. L'altro momento importante del dibattito su Junger nell'ambito della filosofia italiana è stato quello relativo al confronto con Schmitt su Oriente e Occidente, il nodo di Gordio. dove Junger sosteneva la tesi della irreversibilità della deterritorializzazione, il superamento della logica territoriale dello Stato era ormai alle spalle, era ormai già fatto, era già consumato questo superamento, no? E che di conseguenza ormai ogni riflessione somigliava a un giornale di bordo di una navigazione, fosse una navigazione su una nave o fosse una navigazione su una nave spaziale, no? Mentre viceversa molti di voi ricorderanno la chiusura schmittiana del dibattito, fu invece una chiusura dura ma anche un po' enigmatica. Diceva: è vero, io sono stato il primo teorizzatore del passaggio dall'epoca della terra all'epoca del mare e dall'epoca del mare all'epoca dell'aria. Il potere americano è un potere sull'elemento aereo, però stiamo attenti, diceva Schmitt, l'appello della storia non è più oggi lo stesso dell'epoca in cui si aprirono i mari, e non si può andare oltre una volta che la Terra è diventata un globo finito e circunnavigabile, e sono in agguato nuove forme di riterritorializzazione, diceva Schmitt. E questi dibattiti che hanno reso l'opera jungeriana centrale, cruciale nella riflessione filosofica a partire dalla fine degli anni 70, anni 80, non fanno parte, non costituiscono di per sé l'oggetto della ricostruzione di Guerra. Guerra ricostruisce sostanzialmente lo Junger che possiamo collegare con il fenomeno complesso della conservativa rivoluzione. E voi sapete che questo termine è stato come dire, l'ha lanciato per la prima volta da un grande scrittore come Hofmannsthal, e poi però ha avuto una presa anche sugli ambienti, diciamo, gli ambienti politici oltre che filosofici. E la rivoluzione conservatrice, come è stata teorizzata dal segretario anche di Junger, Armin Mohler, è un fenomeno che può essere visualizzato da varie ottiche. Guerra prende le distanze e fa vedere la differenza tra la versione jungeriana e la versione che dà Armin Mohler della rivoluzione conservatrice, però sicuramente la rivoluzione conservatrice ci poneva già all'epoca davanti a un complesso di eventi che oggi ritornano di attualità. Mi limito a pochissimi esempi. Il tema del rapporto tra la tecnica e la centralità della potenza, tema trontiano per eccellenza, la centralità della potenza dell'operaio, del lavoratore. Ricordo la prima traduzione italiana di Der Arbeiter, che era incredibile, il milite del lavoro, che era dava un po' il segno dei tempi, no? E invece è molto, diciamo, più congruo appunto tradurre col lavoratore, addirittura con l'operaio. E aggiungiamo a questo l'aspetto che per gli autori della rivoluzione conservatrice noi abbiamo una sorta di mutazione dello sviluppo industriale capitalistico. Io da tempo, lavorando su questi temi, ho avuto modo di riscontrare come negli ambienti della rivoluzione conservatrice emerga la prima teoria del post-industriale. L'epoca della rivoluzione industriale è finita, ora ha inizio l'epoca della mutazione tecnologica. E nell'epoca della mutazione tecnologica si scompaginano i tradizionali rapporti che si davano tra l'economia e la politica. Decisiva diventa la capacità della politica di orientare l'economia. Qui naturalmente si apre tutto un problema che è il problema, sono i problemi che si pongono al crocevia fra i tre grandi autori variamente collegati alla conservativa rivoluzione, che sono da un lato Junger, da per l'altro verso Heidegger. Sarebbe interessante anche in Italia approfondire più di quanto non sia stato fatto il rapporto, il complesso di rapporti tra Heidegger e la conservativa rivoluzione, e per l'altro verso Schmitt. E diciamo che tutti e tre questi autori sono autori che teorizzano, e Guerra lo fa vedere in una comparazione triangolare, che teorizzano il tema della decisione. Ricordo un libro mai tradotto in italiano, ma utilizzato da molti di noi, da Tronti, da Cacciari, da me stesso, un libro di von Krokow della fine degli anni 50, Die Entscheidung, no? La decisione, una comparazione per l'appunto tra Junger, Schmitt e Heidegger. E mi pare molto importante, mi pare uno dei contributi più interessanti di questa ricostruzione dello Junger giovane, in qualche modo, il giovane Junger, dello Junger anche, se volete, militante e militare, impegnato nella fase che va dalla Repubblica di Weimar all'avvento del nazismo fino praticamente alla fine del regime. È molto importante l'analisi che è condotta in questo libretto da Gabriele Guerra. I rapporti tra Junger e il nazismo sono ben noti. Junger non si sentiva assolutamente in sintonia con il nazismo. Voi sapete che lui era uno degli intellettuali appunto ritenuti fautori, eminenze grigie anche del fallito attentato nei confronti di Hitler, e che era condotto da un gruppo di Junker, di aristocratici antinazisti. Ora, senza volere, come dire, prendere le parti di un gruppo o dell'altro, mi limito a osservare che nel diario di lavoro, nell'Arbeitsjournal, Bertolt Brecht scrisse delle parole infuocate quando venne a sapere negli Stati Uniti del fallito attentato a Hitler. Disse: non pensavo, data la mia posizione, di dovere per una volta sentirmi solidale con Adolf Hitler, visto che gli attentatori nutrivano un'ideologia anche peggiore. Naturalmente è una ferocissima battuta questa di Bertolt Brecht, e anche ingenerosa. E nell'occasione del nostro incontro napoletano, l'indomani mattina, io saltai due lezioni universitarie perché mi trovai a fare colazione con Junger. La colazione si è trasformata in una conversazione di 3 ore e mezza, dove lui, dopo essere scattando, andato a prendere 6 tazze di caffè, no? Era piccoletto e scattante. E io gli chiesi come era andata questa cosa. Lui mi raccontò una cosa che in parte c'è anche nei libri, ma che dalla sua diretta testimonianza risulta ancora più significativa, che il Führer ebbe sul tavolo la sentenza di condanna a morte di Junger, ce l'ebbe per la firma, decise all'ultimo momento di non apporre la firma, non perché naturalmente lui amasse Junger, anche se l'aveva ammirato nella fase iniziale, ma perché temeva le reazioni dei soldati al fronte, che si sarebbero potuti ribellare davanti a una sentenza di questo genere. Quindi diciamo che la vita di Junger fu salvata proprio da questo episodio. Sarà interessante vedere adesso il confronto fra la sapienza germanistica di Mauro Ponzi, che ha seguito sin dall'inizio il lavoro di guerra, e di un filosofo e teorico della politica come Mario Tronti, che i testi di Junger ha, come dire, letto, assimilato e metabolizzato già da tanti anni. Quindi, secondo gli accordi, un po' rovescerei l'ordine, darei la parola prima a Mauro Ponzi e poi a Mario Tronti. Allora, grazie Giacomo, intanto grazie per avermi dato la parola e grazie per aver ospitato questa presentazione, così come volevo ringraziare l'editore che ha dato vita a una collana nel cui primo libro è questo che stiamo presentando adesso. E tu hai evocato Paolo Pierini, no? che conosco bene, essendo stato il mio maestro, eccetera. E visto che seguo Gabriele Guerra da quando era studente, hai evocato tre generazioni di germanisti, quindi questo a proposito. Perché io ho seguito e ho favorito la pubblicazione di questo libro e perché la tesi che Guerra qui esprime è una tesi estremamente interessante, che si collega a una costellazione di problematiche su cui noi stiamo lavorando da tempo. C'è un gruppo di lavoro è lo stesso gruppo di lavoro che ha pubblicato da Aragno nella tua collana quel libro Teologia e Politica, no? Che è il frutto il frutto di un confronto anche con colleghi tedeschi, in cui teologia e politica è chiaro il confronto con una certa concezione del potere, l'origine del potere, quindi siamo in una tematica in qualche modo a questa affine. Perché io dico che è interessante questo libro? Perché lui parte, lui Guerra, rovescia, diciamo così, un po' l'impostazione che di solito si ha con Junger, prima analizzando le sue opere letterarie e poi da queste vedendo quali spunti politici ci siano. La tesi che è alla base di questo libro e che viene chiaramente formulata all'inizio della guerra è che sono le motivazioni politiche, la presa, diciamo così, di posizione politica rispetto al potere che fa sì che Junger scriva, diciamo, le sue opere, sia quelle più direttamente di carattere teorico, sia quelle in cui cerca appunto la forza della forma, che sono di carattere letterario. E questo lo inserisce in una costellazione di autori, quali appunto quelli che hai citato tu, Benjamin, Schmitt, Heidegger, eccetera, eccetera, che si sono posti il problema della decisione, del potere, eccetera. Però in Junger c'è una cosa che viene sottolineata da Guerra ugualmente, che è altrettanto importante e che è riassunta dal titolo. Cioè, la forza della forma significa che in lui, cito quello che scrive Guerra, noi troviamo una... troviamo una declinazione morfogenetica in litteraris del problema del potere. Cioè, non solo questa declinazione viene trascritta, no? Umgeschrieben, direbbe, avrebbe detto Masini, è sottoposta a una trascrizione in termini letterari, ma questa trascrizione in termini letterari sottintende a una ricerca di una forma espressiva, b l'autoesaltazione del soggetto scrivente. La forza che viene cercata è la forza della tecnica evocata da te nel tuo intervento, ma poi finisce per essere l'autoesaltazione della forza del soggetto agente e del soggetto scrivente in quanto colui che pone questo tipo di problematiche. E allora, a ridosso della prima guerra, proprio all'inizio del secolo, a ridosso della prima guerra mondiale, questi due elementi sono stati posti anche da altri artisti e intellettuali che esaltavano ugualmente la forza e la potenza della tecnica. Pensiamo al futurismo, tanto per e questo ci ha posto a noi germanisti e studiosi di arte e di letteratura un problema che era stato, come dire, puntualizzato tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 da Sanguinetti dall'altro e dallo storico dell'arte che scrisse quel libro sulle due avanguardie, Maurizio Calvesi, che ha teorizzato questa storia delle due avanguardie e Sanguinetti ancora più rigorosamente a livello. Ma perché? Perché questa presa di posizione politica, questa istanza politica che Guerra qui nell'analisi degli scritti di Junger ritiene come primaria, come prioritaria, anzi come la vera motivazione, in realtà si presenta fenomenologicamente all'inizio del secolo con due segni opposti, perché il futurismo nasce qui con motivazioni simili a quelle di Junger, la sola igiene del mondo, le tempeste d'acciaio, eccetera, eccetera, con implicazioni convintamente naziste o comunque di destra, conservatrici, reazionarie, chiamiamole con un nome, reazionarie, e invece si presenta in altri soggetti, in altre aree geografiche accanto alla rivoluzione bolscevica come un sogno di palingenesi con implicazioni diametralmente opposte. Allora, anche questa concezione, questa definizione di rivoluzione conservatrice, che del resto è stata coniata dagli stessi autori, come tu ricordavi, cioè sono autodefiniti, cioè, comincia ad essere problematica, così come bisogna ripensare quei due libri sulle due avanguardie di Calvesi e quello Avanguardia ideologia e linguaggio di Sanguinetti, che ponevano, diciamo, dei limiti, dei paletti per distinguere l'una e l'altra avanguardia, soprattutto se si prendono in considerazione degli autori dimenticati o non così famosi come Junger, come Marinetti o come Majakovskij. Allora Forse, bisogna mettere in relazione questo concetto della rivoluzione conservatrice con quello che cita, con un'altra concezione, un altro concetto che cita anche Guerra, pagina 50, quel libro di Jeffrey Herf che parla di modernismo reazionario. Cioè, l'essere a favore del moderno, del nuovo, del tecnologico non comporta necessariamente una come però sembrava sia in Marinetti da un lato oppure nei futuristi russi dall'altro non implica una scelta politica, perché come abbiamo visto le scelte politiche possono essere molto differenziate. E allora l'euforia per la tecnica, anche se con questa si vuole porre il problema di chi decide l'indirizzo, l'uso, non solo l'uso industriale ma l'uso politico della tecnica, non è né a livello letterario né a livello filosofico il presupposto di altre scelte. E allora è a questo punto, secondo me, che entra o rientrerebbe però un tema che qui non voglio toccare, se no finiamo per parlare di un altro libro e lo faremo un'altra cosa, è qui però che rientra l'elemento dell'utilismo. Perché è l'euforia per la forza creatrice dell'uomo, anche e soprattutto mediata dalla tecnica, dalle nuove tecnologie, finisce in Junger sicuramente, in Marinetti sicuramente, in altri in maniera più articolata, per essere un'euforia dell'esplosione, delle tempeste d'acciaio, della forza esplosiva, proprio nel senso più quello che si chiamava in tedesco Materialienschlag, la guerra dei materiali che accosano, e poi è indifferente o comincia a essere indifferente l'effetto che queste Materialienschlag producono sia sugli uomini sia diciamo sulla natura e sia sulla stessa produzione. È qui che si inserisce un elemento nichilistico anche tra i più fieri avversari del nichilismo a parole, no? Si inserisce un elemento nichilistico che poi porta a decisioni o potrebbe portare a decisioni, a situazioni estremamente più gravi che l'euforia di fronte alla forza degli esplosioni. Quindi c'è questo elemento. Quanto all'attualità, io qui ritengo che ci sia una cesura epocale che non è data dal 45, ma la cesura epocale, ormai appare chiaro, è data dal 89. È lì che comincia una nuova epoca in cui ritornano vecchi, nuovi nichilismi, no? come abbiamo poi analizzato in quel convegno di cui sono usciti l'anti, eccetera, eccetera. Lì è tutto un altro discorso. Allora, l'attualità di Junger o dei problemi che Junger pone sul tappeto, secondo me, è legata a questo periodo, diciamo, precedente all'89 e si muove tra questi due poli che sono due definizioni che secondo me noi dobbiamo ripensare e riformulare, quali appunto la rivoluzione conservatrice e il modernismo reazionario. Io volevo porre questi problemi che hanno delle implicazioni, diciamo, anche che riguardano la produzione letteraria, la produzione artistica, ma che sono tutti problemi di carattere teorico. Non vorrei dilungarmi molto, semmai se ci sarà occasione potrei ritornare su questo. No, ringrazio molto Mauro per questo aggancio con le avanguardie letterarie. Mi permetto soltanto di indicare che un elemento fondamentale dello Junger del periodo analizzato da Guerra è il tema della totale Mobilmachung, della mobilitazione totale, cioè la tecnica determina una mobilitazione totale che scompagina tutto il diagramma delle precedenti relazioni della stessa era industriale, no? E quindi mette in campo anche nuove soggettività. Comunque si apre qui un problema, a mio parere, molto serio, molto da un lato meridiano zero del nichilismo, per l'altro verso il tema della vitalità, della volontà di potenza. Bene, la parola adesso a Mario Tronti. Ma io voglio dire intanto che ho letto questo libro con grande piacere, insomma, un piacere intellettuale. E per due ragioni di fondo, per la rievocazione del personaggio, il personaggio insomma per le parti dove di solito abito politicamente e intellettualmente non molto popolare, insomma. E poi anche per la memoria del periodo storico, cioè questa datazione 1918-1945 che ci ridà in mano, insomma, il Novecento nella sua verità, nella sua verità storica. C'è un libro di Junger appunto che si chiama Il cuore avventuroso. Direi che questo periodo storico è il cuore avventuroso del Novecento, che e più lo riguardiamo e più scopriamo da vari punti di vista e a volte anche con occhi sempre nuovi la sostanza, anche la sostanza di radicalità che esso presenta. Insomma. E poi a parte queste due ragioni, insomma, c'è forse una ragione più profonda, cioè un discorso su Junger in questo periodo, in questo centro del Novecento, rappresenta in fondo due grandi categorie storiche del politico novecentesco, insomma, la guerra e la rivoluzione, perché siamo in fondo in quel periodo tra queste due grandi irruzioni, diciamo, nella storia. Ma Junger è una figura, insomma, straordinaria per la sua ricchezza, non è tanto una ricchezza di pensiero, insomma, perché forse non è quel pensatore così profondo, insomma, che si potrebbe pensare, ma per la figura, proprio per la figura complessa, è una sorta di letterato filosofo, insomma, presenta una forma di engagement da un'altra parte, no? Dalla parte opposta da quello in cui di solito si va a cercare l'engagement nella storia pratica. È un militante, infatti, di Weimar, come si dice, insomma, no? È una delle prime espressioni che viene fuori dal libro è questo politischer Soldatismus, no? Che viene molto ben evocato da Gabriele Guerra, anzi ne fa insomma un po' il punto di partenza della formazione anche della presenza di Junger nella storia del Novecento, insomma, no? Appunto perché c'è questa particolare militanza, o meglio questa particolare milizia politica, insomma, non è affatto un caso, insomma, che Cantimori appunto poi in quel periodo legge Der Arbeiter come milite del lavoro, insomma, no? Perché era proprio il senso che si ricavava da quella figura, insomma. Ci troviamo di fronte, insomma, alla prima guerra. Più ci allontaniamo da quel periodo, più la prima guerra, la prima grande guerra, risulta essere un proprio elemento discriminante per tutto quello che ci sarà dopo, ancora per tutto quello che c'è oggi, insomma, no? Perché nella prima grande guerra veramente per la prima volta forse, insomma, la forma della guerra, insomma, si evidenzia, insomma, no? Penso che è più forte la forma della guerra nella prima che nella seconda guerra mondiale, perché nella seconda guerra c'era un apparato ideologico, no? Che ha equivocato in fondo poi la struttura formale della guerra. Invece quella, la prima guerra era guerra, come dire, allo stato puro, insomma, no? Era guerra di potenze, guerra per il controllo degli spazi, senza che ci fossero queste grandi contrapposizioni ideologiche come ci saranno nella seconda guerra, insomma, totalitarismo e democrazia e così via. E quindi il fatto che Junger pensi appunto la prima guerra come rito di passaggio, dice lui, insomma, no? È veramente così, insomma, no? E il fatto che veda in fondo nella guerra una sorta di comunità, in tutto sommato, no? Una Kampfgemeinschaft, no? Una comunità di lotta. Qui c'è una cosa di Junger che io almeno non riesco ad assumere, anzi tendo a escludere anche da questo discorso, pure di fatto di grande interesse alla figura di Junger, ed è questo, insomma, questo estetismo, questa estetica della guerra, insomma, questa proprio non riesco, no, con tutta la buona volontà, ad assumerla, insomma, no, e penso che anzi toglierla di mezzo sia un modo per capire meglio forse anche le stesse cose di Junger, la stessa sua presenza nella storia di quel periodo. Io non so se è vero quello che dice Guerra. A un certo punto lui fa un rapporto tra estetizzazione e messianizzazione, no? Io penso che in questa estetica della guerra non ci sia un'istanza messianica, no, il difetto è che è proprio estetica pura, estetica, cioè è tutta e solo estetizzazione, insomma, no? E quindi ci sono dei passaggi, insomma, la pagina 39 e 44 in cui si parla di questo, ma ecco, quello che è importante per Guerra, e questa è la sostanza del libro, che poi sta anche, appunto, come è stato richiamato, mi richiamava adesso anche Mauro Ponsi, la sostanza del suo discorso, cioè queste due definizioni di forza e di forma, no? Qui sta veramente il centro intorno a cui tutto il discorso del libro si organizza, insomma. E perché questo rapporto molto complesso, da una parte tra Macht e Kraft, no? Cioè tra potenza e quella che potenza politica, forse potenza metafisica, come si esprime Guerra, e dall'altra tra Macht e Geist, no? tra potenza politica e potenza spirituale, no? E qui c'è un gioco molto complesso, che forse è la cosa più interessante della figura di Junger in questo periodo, anche quel passaggio che Guerra definisce molto bene, dal gesto allo stile, no? Perché poi sappiamo come il tema dello stile sia un tema, insomma, jungeriano, che poi lui porterà poi fino alla fine dei suoi, fino agli ultimi suoi scritti, insomma. Ed è questo rapporto che poi è un andirivieni dalla forza alla forma e dalla forma di nuovo alla forza, insomma, no? Perché è una dialettica tra queste due cose, forse non mai risolta una volta per tutte, insomma, no? Qui c'è viene fuori un tema, insomma, che adesso evocava Ponzi, della... Ecco, secondo me, ma insomma dal libro di Guerra viene fuori, ma anche da altre cose su Junger, insomma, quella di Junger non era una posizione antimoderna, insomma, no? Era una lettura reazionaria del moderno. E questo appunto ha fatto bene a richiamare quel modernismo reazionario, perché si dà con Junger, e del resto non solo con Junger, ma anche con questa... con quella costellazione che è stata richiamata, Heidegger, Schmitt, eccetera, una lettura reazionaria del moderno, che è un'assunzione del moderno, ma appunto con questa forma di lettura. Io credo che questa lettura reazionaria del moderno oggi è molto, non dico attuale, perché no, non è attuale, insomma è stata espulsa dal dibattito, dall'interesse, dalla cultura contemporanea. Non è attuale, però è utile. E quelli di noi che l'hanno utilizzata, insomma, no? Consapevolmente utilizzata, proprio come tale, insomma, no? Come lettura reazionale del moderno, ne hanno ricavato grande profitto. Insomma, intellettuale, no? Perché attraverso questo siamo riusciti, io almeno sono riuscito a scoprire alcuni trucchi, alcune trappole di quella che invece era la lettura inversa, la lettura opposta, la lettura progressista del moderno, o la lettura democratico-progressista del moderno. Questo mi ha fatto capire come questa lettura, insomma, era tutt'altro che questa grande acquisizione culturale, insomma, da cui bisognava comunque partire, perché questa lettura democratico-progressista nascondeva più di quello che esprimeva del moderno, ti faceva capire meno del moderno di quanto non ti faccia capire invece a volte proprio quella lettura reazionaria, insomma, no? Proprio sulle caratteristiche della modernità, insomma, no? Che non è questa marcia trionfale del progresso verso il meglio, ma è un andare e ritornare di civiltà e di barbarie, di progresso e di reazione. Non a caso poi, insomma, c'è la democrazia, ma c'è anche il peggiore totalitarismo, c'è la rivoluzione operaia, ma la rivoluzione operaia che si converte in una nuova forma di totalitarismo politico. Cioè la modernità è questa cosa molto più complessa di quanto la narrazione ideologica democratico-progressista non ci ha fatto capire, insomma, no? E Junger in questo, insomma, è un passaggio fondamentale, insomma, c'è quella cosa, quel suo rapporto tra nazionalismo sociale rivoluzionario, per esempio, che è fin da principio, anche quando viene fuori, insomma, la prima irruzione totalitaria, è versus il totalitarismo politico, non è con il totalitarismo politico, no? Si ripete un po', dobbiamo tornare forse a ragionare intorno al fascino che la prima irruzione totalitaria ha avuto su grandi personaggi di levatura intellettuale enorme, come quello che abbiamo evocato, ma come altri che abbiamo avuto anche in Italia, a cominciare da Gentile, insomma, non erano degli sprovveduti che potevano sbagliarsi, insomma, così tranquillamente di fronte. Io mi sono sempre chiesto se hanno avuto questo cioè qual era, ci sarà stata pure una ragione. E la ragione è che all'inizio quello si presentava come un momento di forte rottura. Qui siamo di fronte a che fare con un pensiero radicale, insomma, no? Con un pensiero a suo modo rivoluzionario. E quella sembrava un evento rivoluzionario, anche la proposta iniziale, no? Del fascismo in Italia, del nazismo, sembrava una rottura con un passato. E non era, insomma, Cioè quella tesi di De Felice, di Renzo, sul movimento e il regime non era banale, insomma, non c'era questo passaggio. Ma insomma, quando vedo che il partito di Hitler all'inizio si chiama Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, beh, fa impressione, insomma, no? Fa impressione. E c'è quel testo su cui insiste molto Gabriele Guerra, quel saggio di Junger sul nazionalismus, tra virgolette nazionalismus, che lui considera molto importante, e da come ne parla è un saggio del 29, insomma, no? Beh, dove lui propone sì il tema della Zerstörung, no? del tema della distruzione, insomma, dove viene fuori, insomma, per la prima volta quella sorta di pathos antiborghese che è una caratteristica fondamentale della personalità di Junger, che devo dire, ecco, questo pathos antiborghese mi dice molto, no? Mi piace molto, lo devo dire apertamente, insomma, no? Questa, anche se si maschera di un aristocraticismo, non sono d'accordo con quel Brecht lì, insomma, no? Quell'aristocraticismo era molto meglio era molto meglio se Hitler finiva lì, insomma, prima. Semmai si possono accusare di ingenuità, di appunto. No, qui per esempio su questo tema, poi concludo, c'è una figura, insomma, che viene evocata da Gabriele Guerra, ma che, insomma, e c'è questa figura di Nikisch, no? Io penso che sia una figura molto, molto importante. Bisognerebbe studiarla più a fondo, insomma, mi piacerebbe che qualche giovane magari si mettesse a studiare una personalità, con una persona così, invece di perdere tempo, come si è perso tempo, che so, con Deleuze e Gattari, insomma. Nel senso che, insomma, lì viene fuori una sostanza di pensiero, no?